Non è semplice spiegarti che la paura di ferirti ha messo a terra le mie armi e tu non puoi vedermi stanco di raccontare al mondo quanto ci ho tenuto e quanto pianto. Non puoi chiedermi se ho perso, se non ci sono vincitori in questa parte di universo. È stato solo per amarti che ho un'altra pelle, l'ho vestita di diamanti, è stato solo per averti, solo per amarti. Non c'è niente al mondo che sia quanto. Questo mondo è limitato con dei muri all'infinito. Noi saremo due giganti e guarderemo l'orizzonte inventando nuovi spazi. È stato solo per averti, è stato solo per amarti. Non c'è niente al mondo che sia quanto. Può riscrivere una vita. Non c'è niente al mondo che sia qua. No, non sento che fine.